voglio che l'offerta sia costante, ricca, preziosa. Levamito di sorte, olio d'olosi, balsami, incenso e fiori. Tutte le ancelle hai detto, tutte, e in bestia brunate. Generata da un sogno avvenuto atroce, ecco il Oh! Oh, vogliono sia compiuta, e che l'oracolo dell'invisibil lo sia ha imposto a me, al tuo fratello. E sia, e mi perdoni, padre, se prima di pensare alla giustizia venessi irresa, ma devo dirlo qui davanti. via tutte queste donne. Foreste ascolta, e che non sei parlato. vuoi più guardare, quella che udivo quando ero bambino, da quella madre che tu più non sei. Non c'eri tu le ricche dalla madre, non c'eri con le sue maledizioni. Temere non dovrei quel. Aspettatemi qui, sino che io torni. dentro fino al bagno vi troverà cadaveri due vostri. Se avevano chiesto al fato il potere morire insieme, come insieme avevano compiuto l'assassinio di mio padre, a darti lo sgomento che ti pesa sul ferro.